ad alta voce. Elisabetta Piccolomini legge L'Edera di Grazia Deledda. Quindicesima puntata. Lassù tra le rocce e i boschi millenari s'aprivano grotte e nascondigli inaccessibili a tutti, fuorché i pastori che ne conoscevano i labirinti. Ziu Castigu poi era tanto pratico di quei luoghi che egli stesso qualche volta si vantava d'essere il re delle grotte. Senza dubbio Paolo, poiché non era tornato in paese, si indugiava lassù in attesa che la calunnia messa in giro dagli amici del morto venisse smentita. Ripassando dietro la chiesetta dove cominciava il sentiero della montagna, Annessa si fermò ancora ad ascoltare e a guardare verso il villaggio. Le pareva d'essere inseguita, ma non sentì nulla, non vide nessuno. La luna, limpidissima, illuminava le casette nere e grigie che parevano fatte di carbone e di cenere. Il vasto orizzonte, tutto d'un azzurro latteo, sembrava uno sfondo di mare lontano. Le ombre delle rocce e dei cespugli si disegnavano sul terreno giallognolo. Tutto appariva dolce e misterioso. Ella si rassicurò. Le parve che la notte, la luna, le ombre, il silenzio le fossero amici. Tutte le cose tristi ed equivoche oramai le davano coraggio, perché tutto era triste ed equivoco nella sua anima. Cammina, cammina, cominciò la salita, dipartendosi dal punto preciso dove era morto il mendicante, suo primo compagno di viaggio, che l'aveva condotta là, in quell'angolo di mondo, come il vento porta il seme sull'orlo dell'abisso. La fatalità continuava ad incalzarla. Un vento di morte la spingeva. Avanti, avanti, ella andava e non sapeva dove sarebbe arrivata, come non sapeva dove era venuta. Su, su, di pietra in pietra, di macchia in macchia. D'un tratto il sentiero si insinuò tra le felci e i rovi che coprivano i fianchi del monte, poi tra le macchie di ginepro, poi nel bosco e fra le rocce. La luna penetrava qua e là tra gli alberi altissimi, ma spesso le rocce la nascondevano e l'ombra s'addensava sul sentiero. Fantasmi mostruosi sbarravano allora lo sfondo della strada. In lontananza apparivano edifici neri, misteriosi. Muraglie fantastiche sorgevano di qua e di là dal sentiero. Le macchie sembravano bestie accovacciate e dai rami degli elci si protendevano braccia nere, teste di serpenti, tutto un mondo di sogno, ove le cose incolori e informi destavano paura per la loro stessa immobilità. Annessa camminava e le pareva di essere passata altre volte attraverso quelle tenebre, in mezzo a quei fantasmi, e di conoscerli e di non aver più timore dei pericoli ignoti che la precedevano e la seguivano. Eppure di tanto in tanto bastava il fruscio dei suoi passi sulle foglie secche per farla trasalire. A metà strada, sull'alto di una china, apparve una figura strana che si muoveva davvero. Sembrava una figurina umana, ma con un'enorme testa di medusa nera nel chiarore lunare. Annessa si gettò dietro una roccia e vide passare e sparire a lunghi passi silenziosi una ragazzetta scalza con un fascio di legno sul capo. Era una bimba che viveva vendendo legna rubata. I suoi piedini coperti di una crosta di fango sembravano calzati di leggeri sandali adatti alla fuga. Annessa riprese la strada e su, un'altra figura apparve, nera, sulle bianche lontananze di un pianoro, un centauro che fischiava e galoppava verso le vaporosità dell'orizzonte, poi più nulla. Il mare apparve come una nuvola d'argento azzurrognolo sull'ultima linea del cielo lattiginoso, e la chiesetta nera si disegnò alla destra del sentiero sulla china petrosa. S'udiva il tintinnio monotono e argentino dei sonagli di un gregge al pascolo. Dovevano essere le pecore di Ziu Castigu. Guidata dal tintinnio melanconico, Annessa attraversò il pianoro sottostante alla china e giunse fino alla capanna del vecchio pastore. Non trovò nessuno, ma il cane cominciò ad abbaiare e Ziu Castigu non tardò ad apparire, avanzandosi rapidamente dal bosco. «Annessa, che c'è? Sei tu, anima mia?» gridò con voce spaventata. «Che è accaduto?» «Dov'è?» ella domandò con voce bassa e anelante. «Dov'è?» Il pastore la guardò da vicino. Gli parve che ella fosse invecchiata e impazzita. «Chi?» domandò. «Chi?» «Paolo!» ella disse quasi con dispetto. «Paolo? E chi lo ha veduto?» Sulle prime ella credette che il vecchio mentisse. «Ditemi dov'è, a me potete dirlo. Sono venuta per lui, devo parlare con lui.» «Ma che è accaduto, Anna? Ti giuro che non ho veduto Don Paolo.» Allora Annessa vacillò. Parve impazzire davvero. «Ma dove sarà? Ma dove?» gridò. E pareva rivolgesse la sua domanda al cielo, alla notte, al destino fatale che la spingeva sempre ingannandola a prendersi crudele gioco di lei. «Ma che cosa accade, Annessa? Che disgrazia! Io credevo che Paolo fosse qui, nascosto. Lo cercano, Ziu Castigu mio, lo cercano. Cercano anche me. Hanno arrestato Don Simone, Zio Cosimo Damiano, Donna Rachele e devono arrestare anche Paolo, anche me. Ci accusano di avere assassinato Zio Zua. Dov'è Paolo? Dov'è?» Anche il vecchio impallidì e si turbò. «Mio nipote Ballore, venuto qui stamattina, mi raccontò che Don Paolo s'era ripreso il cavallo dicendo che doveva andare in campagna. Io non l'ho veduto, purtroppo», disse. «Raccontami tutto, mi pare di sognare. È mai possibile ciò che tu dici? Non sei malata?» «No, no, non sono pazza, Zio Castigu. Vorrei esserlo, ma non lo sono», ella disse con disperazione e raccontò ciò che sapeva dell'arresto dei suoi benefattori. «Anche Donna Rachele, anche Don Simone. Ma in che mondo siamo? Ma è impazzita la giustizia? E tu, Annessa, tu non sai altro?» Ella protestò, non sapeva altro, ma ad un tratto fu riassalita dalla paura. Pensò che ella sola era veramente in pericolo, mentre gli altri, innocenti, avrebbero trovato modo di salvarsi. E si aggrappò al vecchio e gli disse con voce sommessa: «Nascondetemi, nascondetemi, per l'anima dei vostri morti, nascondetemi. Dove sono le grotte? Portatemi là. Bisogna che io stia nascosta, bisogna che nessuno senta la mia voce finché loro non sono salvi.» Gli strinse le braccia, poi si gettò per terra, gli abbracciò le ginocchia, si raggomitolò, pareva gli si volesse nascondere sotto i piedi. Egli la guardò dall'alto e un pensiero gli balenò in mente, luminoso e tetro come un lampo. «Sì, ti nasconderò. Tu sai però, hai fatto o hai veduto», disse severo. «Non so niente, non ho veduto niente, nascondetemi. Tutti mi hanno consigliato di non lasciarmi arrestare. Nascondetemi, Ziu Castigu, nascondetemi.» «Tutti», egli insisté. «Chi tutti?» «Tutti, tutti, Ziu Castigu mio, ed anche voi, non permetterete. No, no, no, no, nascondetemi. Ora ti nascondo subito dentro la mia tasca», egli disse con impazienza, toccandole una spalla. Ella tremò tutta. Il vecchio sentì dentro di sé come la ripercussione di quel fremito e di nuovo intese la verità. Ma più che orrore sentì una profonda tristezza e la sua anima semplice e timida d'uomo solitario diventò pietosa ed eroica davanti al dolore della donna piegata ai suoi piedi come un agnello ferito. «Alzati e vieni con me», disse semplicemente. «Se non sei colpevole non devi temere». Ella si alzò, si guardò intorno e sentì il bisogno di domandargli consiglio. Un cuore pietoso in quell'ora di miseria valeva più che tutti gli avvocati del mondo. «Ziu Castigu, ditemi voi che cosa devo fare?» «Tacere, figlia», egli rispose portandosi una mano alla bocca. «Tacere per il momento. Ora ti nasconderò secondo il tuo desiderio e tu resterai laddove ti condurrò e starai zitta come le rocce finché non tornerò io. Ti metterò tra due pietre», aggiunse avviandosi verso la capanna. «Ti nasconderò in modo che anche se ti cercheranno come si può cercare una spilla nel mare non ti troveranno certo. Ti porterò da mangiare e da bere. Farò il corvo che portava il pane ad Elia». Entrò nella capanna e prese un vaso di sughero e un pane d'orzo. Poi s'avviò nuovamente verso il bosco. Ella lo seguì. Ricordava di aver percorso altra volta quella radura senza alberi, coperta di cardi secchi e di fieno, di aver veduto altra volta quella linea di bosco che stendeva una nuvola nera sul cielo d'argento. La luna brillava limpidissima, ma in lontananza cominciavano a salire larghi nastri di vapori luminosi e quando i due giunsero di là della radura videro, attraverso i tronchi, un mare di nebbia argentea dal quale emergeva, come uno scoglio azzurro, la piramide di Monte Gonare. Ella trasalì. Sì, era la stessa strada percorsa con Don Paolo quel giorno, il primo del loro amore. Noi eravamo in peccato mortale. Dio grava la sua mano sopra di noi e ci castiga, pensò chinando la testa. Quando furono sotto la tomba del gigante, grande, misteriosa, nel silenzio lunare, Ziu Castigu prese a salire di pietra in pietra, tirandosi dietro la donna cieca di dolore e di lacrime. «Perché piangi ancora? Non aver paura, ti dico, vedrai, cammina, piano, bada di non cadere. Gli occhi ce l'hai, eh? E buoni anche». Ella sentiva le pietre oscillare sotto i suoi piedi, come allora, e le pareva di dovere di momento in momento precipitare in un abisso. Sfiorarono infatti un precipizio, salirono fino alla pietra che sembrava una bara, ridiscesero l'altro versante della cima e si inoltrarono fra due muraglie di rupi. La luna, allo zenith, illuminava lo stretto passaggio, tuttavia il pastore procedeva cauto, sfiorando le muraglie. D'improvviso le rupi s'aprirono. Apparve tutto l'altro versante della montagna, e valli, e altre montagne ancora, ombre e vapori, e il chiarore della luna rendevano più fantastico il panorama. Annessa s'asciugò gli occhi e guardò dall'alto. Ziu Castigu saltò sulla roccia sottostante e l'aiutò a scendere. Di nuovo passarono lungo una specie di gradino sospeso su un precipizio e finalmente si fermarono davanti all'apertura bassa e larga d'una grotta. «Qui, vedi, dopo che tu sei entrata, io metterò una pietra e un po' di fronde. Nessuno potrà scovarti», disse il pastore. «Ho paura», disse Annessa. «Di che hai paura? Solo il diavolo potrebbe scovarti. Andiamo». Si chinò e sparve. Annessa a sua volta si mise carponi e il pastore dall'interno la prese per le braccia e la tirò dentro. Ella vide allora non un antro basso e tenebroso come di solito sono le grotte delle montagne, ma una specie di camera formata da rocce mirabilmente collocate. Oltre il buco d'entrata uno spiraglio abbastanza largo per lasciar passare una testa d'uomo s'apriva fra due macigni e Annessa vi si affacciò diffidente. Sotto di sé vide una cascata spaventosa di rocce precipitante fin quasi in fondo alla valle, qua e là tra i crepacci delle rupi, livide alla luna. Nereggiavano ciuffi delci e cespugli che parevano chiome selvagge di mostri pietrificati. Un chiarore vago penetrava dall'apertura. Tuttavia zio Castigu accese un fiammifero, lo sollevò, lo abbassò. Allora Annessa distinse in fondo alla grotta un avanzo di cenere e accanto a questo segno di passaggio umano una pietra addossata alla roccia. Altre creature erano dunque passate in quel luogo di mistero, portandovi e lasciandovi qualche cosa del loro dolore, della loro paura. Ed ella sedette sulla pietra, come su un trono di espiazione, e quando il pastore se ne fu andato, le parve di non restare completamente sola, poiché col piede sfiorava l'avanzo d'un fuoco che aveva illuminato un dolore o un orrore simile al suo. Le ore passarono. Annessa pensava: sì, non sono io sola colpevole. Quanti altri uomini e donne hanno peccato, hanno commesso delitti, hanno fatto del male, non tutti sono stati castigati come lo sono e lo sarò io. Perché questa sorte a me? Perché questa sorte? Ma era già quasi rassegnata. Sapeva ciò che doveva fare. Aspettare. Null'altro. Zio Castigu le darebbe un consiglio e se occorreva presentarsi alla giustizia, ella si sarebbe presentata e poi non poteva più pensare al poi. Era stanca, il sonno la vinceva, ma le pareva di non poter dormire dentro quel nascondiglio dove altri assassini, altri malfattori avevano portato la loro ansia e il loro anelito di belve sanguinarie inseguite da cacciatori implacabili. Come posso dormire qui? Mentre i miei benefattori sono anch'essi rinchiusi in una tana peggiore di questa. Pensava e dimenticava subito questa domanda e le pareva che la pietra si muovesse, l'apertura si spalancasse e una figura barbuta apparisse dietro la roccia. Allora cercava di muoversi, ma non poteva. Poi dimenticava tutto, rivedeva la nebbia argentea in fondo al bosco, la piramide di Gonare, la tomba del gigante. Così le parve di non dormire, ma d'un tratto, dopo aver veduto mille cose strane e aver viaggiato e corso affannosamente su per le montagne paurose, spalancò gli occhi e rabbrividì. L'alba violacea rischiarava il nascondiglio. Ella si alzò e guardò dall'apertura. Silenzio profondo. Il cielo era velato. Larghe strisce di nebbia bianca che parevano fiumi solcavano qua e là le valli e i monti. Dalla profondità del burrone salì uno strido lamentoso. Ella si ritrasse, sedette di nuovo, pietra tra le pietre, e attese. E come nel sogno aveva creduto di muoversi e di vedere cose reali per quanto spaventose, ora, nella realtà, credeva di sognare. Immagini vaghe, confuse, le passavano davanti agli occhi smarriti. In un profilo della roccia le pareva di riconoscere il profilo grigiastro della sua vittima. Il vecchio era vivo ancora sano, e stava seduto di fuori della porta di casa assieme con Don Simone e con Zio Cosimo, e con la sua voce dispettosa raccontava le sue avventure di guerra. Annessa, seduta sul limitare della porta, ascoltava e provava un vago sentimento di terrore. Ella non credeva in Dio, non credeva nel giudizio universale, ma le parole del vecchio la spaventavano. Finalmente zio Castigo ritornò. «Ehi, bandita!» disse scherzando mentre penetrava Carponi nello speco e spingeva avanti a sé un recipiente chiuso. «Ecco i soldati!» «Zio mio!» supplicò Annessa premendosi le mani sul petto. «Non parlate così, non è tempo di scherzare. Ditemi, ditemi!» Egli si sollevò e le porse il recipiente che era colmo di latte coagulato. «Ditemi, ditemi!» «Don Paolo non è stato ancora arrestato, ma lo cercano dappertutto. Cercano anche te. Hanno perquisito tutte le case del vicinato, la casa di zia Anna, la casa di Prete Virdis, la casa di Francisca Perra.» Annessa ascoltava con gli occhi spalancati, come svegliata di soprassalto da un sonno profondo. «Dove sarà Paolo? Dove credete che sia?» «Colomba, l'ho dentro la mia saccoccia», disse il pastore mettendosi una mano in tasca. «Che posso sapere io? Bevi un po' di latte, mangia questo pezzo di pane.» «Raccontatemi», ella insisté. «Siete stato laggiù?» «Sono stato laggiù. Ho parlato con Prete Virdis. Egli crede che non risulterà nulla, poiché vi ritiene innocenti tutti. Oggi arriveranno due medici da Nuoro per la perizia medica del cadavere. Se niente è accaduto, niente risulterà. Fra qualche ora verrà su mio nipote Ballore che mi porterà notizie. Tornerò.» Ella mise il latte e il pane sulla roccia e non mangiò. Con le mani in grembo, gli occhi fissi in lontananza, stette di nuovo immobile, ma non sognò più. Se niente è accaduto, niente risulterà. Potevano ben sperare gli altri. Ella non sperava più. «Essi mi cercano», pensava con raccapriccio quasi fisico. «E finiranno per trovarmi qui o altrove. È forse meglio che io vada. Che aspetto? Egli, il vecchio, egli oramai parlerà. Dirà il segreto ai medici sapienti. Lo hanno dissotterrato per questo. Egli parlerà, egli parlerà.» E sentiva di odiarlo ancora. Mi cercano, mi hanno cercata anche là, dalla vecchia zia Francesca. Povera vecchia, che penserà di me? Ella piangerà d'orrore ricordandosi di aver baciato la mia mano.» Più tardi, arsa dalla sete, bevette un po' di latte, incoraggiata dal silenzio profondo del luogo, sporse la testa fuori dall'apertura e guardò a lungo sul precipizio. Era un giorno velato e caldo. Le montagne calcaree della costa sembravano vicine. Nella grande vallata si distingueva nettamente ogni strada, ogni macchia, ogni filo d'acqua. Ma sul versante della montagna ondulavano ombre e vapori simili a grandi veli distesi sulle rocce. Lo strido lamentoso che l'aveva sentito fin dall'alba saliva più acuto e distinto e pareva un sibilo umano. Ed ella cominciava a crederlo veramente, il grido di qualche pastore, quando distinse due nibbi che avevano fatto il nido tra le rocce. I due uccelli si inseguivano volando d'albero in albero, giù in fondo al burrone, ma ad un tratto il nibbio maschio volò in alto, fece come un giro di esplorazione, ripiombò giù e riprese a svolazzare intorno alla compagna che lo richiamava col suo strido lamentoso d'una tenerezza selvaggia. Poi i due uccelli in amore salirono fino all'elce vicino allo speco e il loro strido di piacere parve animare tutta la solitudine del grande paesaggio austero. E Annessa ripensò al suo amante, nascosto come lei, in un luogo ignoto, e sentì tutta l'angoscia del bene perduto. «Mi condanneranno, mi porteranno lontano, lontano, in una reclusione oscura. Là ella avrebbe ricordato il suo Paolo, come gli angeli maledetti ricordano il Signore. E più nulla di lui, ella avrebbe posseduto, forse neppure il pensiero, perché egli non poteva certo pensare a lei. Assassina. Perché ho fatto questo?» si domandò cadendo in ginocchio. «Dio disse non ammazzare, non fornicare. Io ho chiuso gli occhi alla luce di Dio e sono caduta come cadono tutti coloro che non guardano dove passano. E di nuovo pianse e batté la fronte sulla roccia. Ma già una luce, vaga, la richiamava verso un punto lontano e la guidava come la luce del faro richiama e guida il navigante attraverso le tenebre e l'ira feroce del mare in tempesta. Elisabetta Piccolomini ha letto L'Edera di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.